Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In questo nuovo appuntamento troviamo sempre gli amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, però con noi c'è il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te oggi tocchiamo un argomento che è quello delle cliniche dentali, perché insomma quando uno, lo sappiamo, deve mettere mano ai propri denti, solitamente sa che si svuota in parte o del tutto, si svuota il conto corrente. Sì, infatti le cliniche dentali oggi sono fenomeni molto diffusi anche per effetto di messaggi che riceviamo continuamente quando vediamo a TV, nelle pubblicità, insomma anche nei giornali, e molte volte si è anche attratti da quelle che sono delle condizioni di favore che sembrano insomma poter contenere il prezzo rispetto ad altri generi di studi. Poi magari su un'altra puntata parleremo anche delle cliniche dei paesi dell'est, ma concentrandoci su questo fenomeno, il fatto che quest'anno abbiamo avuto quasi un raddoppio delle controversie nei confronti di queste cliniche ci fanno oggi in due essere qui con te a parlare un pochino di queste cose. Benissimo, raccontiamo allora quello che state seguendo come Adico. Praticamente quest'anno rispetto all'anno scorso siamo passati da 12 a 21 casi, considerando che poi l'anno non è ancora finito, e generalmente ci è capitato che le persone che si sono rivolte a noi sono lamentate a vario titolo del trattamento che hanno ricevuto. In particolar modo i casi più significativi riguardano il fatto che quando il paziente entra dentro queste cliniche perdi un po' quello che è un rapporto di fiducia con il medico, perché ogni volta che vai a una seduta c'è sempre un medico, un dottore diverso rispetto a quello che ti ha curato la precedente volta, e quindi sembra quasi dover ricostruire un po' quello che è un iter dell'attività che è in corso. Poi ci sono preventivi che generalmente rispetto a quelli inizialmente proposti subiscono delle limitazioni anomale, e altri casi invece riguardano lavori fatti male che poi hanno comportato la necessità di dover rimettere mano al lavoro e magari anche a insorgere appunto delle controversie che ha visto l'Adico impegnato in vario tempo. Quindi abbiamo visto che ci sono delle negatività, ma rivolgendosi a queste cliniche dentali si risparmia effettivamente o è meglio proprio allora individuare un singolo dentista e fidarsi di quello? Allora, generalmente le condizioni proposte sono sempre abbastanza favorevoli, perché anche nei modi in cui si effettuano i pagamenti, le finanziarie in cui si appoggiano, le possibilità di relativizzare l'opera, certamente danno delle situazioni migliori rispetto a quelle che potrebbero essere degli studi privati. Però in realtà alla fine non è che, al di là di quella che è una struttura organizzata nella presentazione, nelle sale d'aspetto, nella poltrona, alla fine non è che si riceva un servizio di qualità così superiore o diverso rispetto a qualsiasi altro studio dentistico. Il fatto che comunque il consumatore si sia sempre lamentato che comunque si trova sempre un medico diverso quando prosegue nel lavoro, questo deve farci anche riflettere se alla convenienza dobbiamo accettare anche questo nuovo metodo di lavoro proposto. Mi sembra assolutamente interessante, quindi il consiglio dell'Adico è quello di valutare come sempre molto bene, no? Magari fidarsi anche delle esperienze di qualcuno che c'è già stato da quel dentista o da quello studio dentistico. Sì, allora per la nostra esperienza le problematiche insorte riguardano un po' tutte le principali cliniche. Invece il messaggio e il consiglio che è importante, che mi sento dire, è quello di innanzitutto farsi sempre rilasciare un preventivo scritto. La seconda cosa, qualora si abbia dei dubbi che il lavoro non sia stato eseguito bene, sia male, perché poi molte volte sono anche gli effetti postumi dell'intervento che abbiamo avuto a che fare con pazienti che si sono rivolti a noi, bisogna rivolgersi a uno studio magari di fiducia che certifichi, insomma, che l'operazione che è stata fatta non è stata fatta nel modo migliore. E poi sarà un lavoro nostro rivalersi nei confronti della clinica e richiedere magari i lavori che sono i soldi dei lavori che sono stati mal eseguiti. Ecco, in questo l'Adico è molto attivo, avete già un bel po' di casi da seguire, quindi nell'eventualità vi fosse capitata una vicenda del genere, quindi di qualche lavoro eseguito male sulla vostra bocca, insomma, potete rivolgervi chiaramente all'Adico. Ricordo il sito, che è www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.